Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Sono più di 50.000 le persone che, da inizio emergenza coronavirus, stanno lavorando volontariamente sulle ambulanze. Una prima linea che si estende anche ad altri settori. Ci sono decine di migliaia di volontari che stanno portando la spesa a domicilio, ad esempio, ad anziani o persone con disabilità. Ma ci sono tante iniziative che volontariamente stanno dando conforto a chi è costretto a stare a casa. La puntata di oggi è interamente dedicata a loro. In prima linea, ovviamente, c'è la Croce Rossa. La paura c'è, ma dobbiamo andare avanti, raccontano i nostri microfoni. E allora iniziamo con Tia Viemini, volontaria da più di 30 anni in Croce Rossa. Da un lavoro ordinario a un lavoro super straordinario. Raccogliamo tutte le richieste che arrivano da fuori, straordinarie in questo momento, e cerchiamo di ridistribuire il lavoro sul personale che abbiamo. Stanchezza tanta, ma volontà ferrea. Paura c'è, ma deve essere una paura proattiva alla protezione mia e dei miei compagni di lavoro in questo momento. Cercando di adottare tutte le misure imparate negli anni di formazione, cercando di metterle in pratica, cercando di farle rispettare a tutti gli altri e pensandoci poco. L'ultima cosa che penso prima di addormentarmi è che domani bisogna essere ancora pronti a lavorare. La prima cosa che pensi quando ti svegli? La prima cosa che penso quando mi sveglio è che bisogna andare a lavorare. Ma lavorare non è il mio lavoro abituale, ma è un lavoro utile per tutta la comunità. Sono Erika Pellizzoni e sono la referente della soccorso della centrale operativa. Ma allora dal punto di vista della centrale operativa abbiamo molte chiamate di cittadini preoccupati, ovviamente, quindi c'è un aumento decisivo delle chiamate che arrivano. Dal punto di vista dei soccorritori, ovviamente la richiesta è aumentata, abbiamo dato delle macchine in più rispetto a quelle che diamo normalmente per far fronte a questa emergenza, e ovviamente c'è dal punto di vista emotivo di tutti noi una preoccupazione per il personale che si trova fuori. Ci siamo attrezzati ovviamente con tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, continuiamo a tenere sotto controllo e parlare con i nostri soccorritori, ma ovviamente la pressione è molto forte per tutti. Ho paura per i miei colleghi, per i miei amici, e ogni giorno continuo a ripetere di stare a casa, di non uscire. Però io l'affronto lavorando, perché siamo qua per questo, siamo qua per tutti, e quindi lavoro e cerco di dare il massimo in quello che sto facendo in questo momento. Mi chiamo Giuseppe Polimeno, lavoro per il Comitato di Milano, mi occupo nel settore emergenza, coordinamento delle emergenze sul territorio, e sto coordinando tutta la logistica, quindi movimentazione mezzi materiali, attrezzature, personale, per far fronte alle esigenze che ci sono sul territorio. La situazione è grave, la vivo tutti i giorni come un giorno diverso, affrontando quello che arriva. Sono come tutti preoccupato per i miei familiari, per i miei cari, ma in questo momento so che c'è da fare. Questa settimana è di fatto entrato in azione un protocollo d'intesa tra comuni e associazioni locali per organizzare la spesa a domicilio, un servizio molto importante, migliaia le persone raggiunte e sostenute, come spiega il presidente di Coop Marco Pedroni. In queste ore si stanno contattando le organizzazioni di volontariato e si stanno predisponendo le azioni. Al momento sono oltre 150 le associazioni di volontariato coinvolte, quindi si possono stimare quasi 1000 persone che sicuramente fanno un'attività di questo tipo. Però nei prossimi giorni si consoliderà il servizio, si estenderà anche ad altri comuni e a questo si sommeranno anche attività che io immagino anche le altre catene distributive attraverso analoghi protocolli potranno fare con Protezione Civile e comuni stessi. Come COP abbiamo lanciato questa iniziativa perché noi abbiamo una storia molto lunga di attività solidali, abbiamo poi molti soci volontari che svolgono già attività a favore dell'ambiente, a favore delle comunità, a favore anche dell'assistenza di persone in difficoltà, quindi è stato per noi naturale quando è scoppiata l'emergenza porci il tema di come raggiungere le persone che non hanno più bisogno, cioè quelle veramente bloccate a casa, e abbiamo pensato di farlo non solo territorio per territorio, cosa che già naturalmente le nostre cooperative avevano iniziato a fare, ma anche predisponendo uno schema nazionale, abbiamo trovato la Protezione Civile, l'ANCI nazionali molto disponibili a predisporre uno schema appunto generale che possa favorire, indirizzare e anche coordinare un po' le azioni sui territori. Poi ovviamente la vitalità dei tanti comuni e delle tante associazioni che operano nel territorio a fare la differenza positiva. Ci sono stati casi in questi giorni in cui è stato anche emozionante poter svolgere questa attività, ci raccontano i volontari, i nostri addetti di punto vendita, perché si è dato risposta a persone che davvero non avevano altra alternativa, perché se c'è una persona bloccata a casa che però ha un figlio, ha un parente che può fargli questo servizio è un conto, ma chi non ce l'ha deve davvero affidarsi alla solidarietà degli altri. Ad entrare nelle case ci sono persone come Flavia Sansoni, volontaria della Protezione Civile di Ravenna da oltre 20 anni. Sono una volontaria, credo nell'importanza e nel valore aggiunto di essere volontari della Protezione Civile, ci credevo in passato, oggi più che mai ci credo fortemente. Vi garantisco, noi volontari vorremmo davvero stare in casa con le nostre famiglie per la tutela loro e nostra, invece siamo fuori a portare una risposta aggiuntiva a chi già è fragile in condizioni normali e in questo momento la propria fragilità è aumentata da questa condizione particolare. Quotidianamente i servizi sociali del nostro comune ci inviano tutti i giorni attorno all'una circa l'elenco delle persone e delle spese da andare a fare. Noi abbiamo fatto questa convenzione con Coop Adriatica per fare la spesa con una squadra non mai meno di 10-12 persone e poi lo andiamo a consegnare. Ma è ovvio che noi non possiamo entrare in casa, ma le persone dove andiamo hanno comunque bisogno di un contatto dall'esterno, quindi non è che lasciamo semplicemente la spesa e ce ne andiamo da lontano con tutti i DPI, facciamo una parola, salutiamo, sta bene, ha bisogno di qualche cosa e quindi comunque ecco una porta aperta, un contatto sul mondo esterno con tutti i dovuti ovviamente accorgimenti previsti dalla normativa. Ho visto persone molto sole che hanno proprio bisogno anche di quella parola aggiuntiva, cioè dove l'assenza del contatto umano sta diventando un problema. E l'altro giorno sono andata a consegnare una spesa ad una signora che per arrivare alla porta, ti garantisco, ci ha messo 10 minuti. Era piegata sul suo deambulatore e al che gli ho chiesto se era da sola, fra l'altro in una casina in un paesino un pochino lontano, proprio non in centro a Ravenna, e in una zona non dico isolata perché aveva comunque dei vicini, però in una condizione un pochino particolare. E questa signora piegata su questo suo deambulatore, io non posso entrare in casa E lei mi ha detto: guardi, se me la lascia lì fuori io marcisce lì, perché non riesco neanche a tirarla dentro. Quindi nel rispetto della normativa le ho chiesto di allontanarsi, l'ho portata ho messo dentro la spesa e sono entrata nella sua abitazione, dove ho percepito un senso di, come posso descriverlo, di solitudine importante. La signora mi ha chiesto così, ha cominciato a parlarmi, a chiedermi, a distanza ovviamente, lei non aveva mascherina, non aveva guanti, e a chiedermi cosa c'era fuori, com'è fuori girare senza che ci sia nessuno, la modalità e gli occhi con cui me l'ha chiesto. E devo dire che mi ha colpito molto. Ecco, questi piccoli gesti che forse nella quotidianità, quando non siamo in emergenza, magari non diamo per scontati, invece in un momento come questo fanno la differenza. Oppure l'altro signore anziano, sempre io ho portato la spesa, questo signore anziano che abita in una casina a piano terra e insisteva nel dire a me e ai miei colleghi: venite dentro, vi offro un caffè. no, è un contatto col mondo esterno, ripeto, quella signora che mi ha chiesto: ma com'è veramente fuori? Se ci fosse, anzi in realtà sì, c'è questo nemico fuori, ma da dentro casa è fatica a percepirlo, no? Allora, ho visto anche cose, metterei su due piani due cose. Ho visto anche cose belle e cose brutte. Cose belle: ho visto un ritorno della condivisione a livello di vicinato. Cose che invece mi fanno male è vedere purtroppo che ci sono persone che non rispettano le regole, persone che si arrabbiano anche con noi l'altro giorno, ma non perché siamo noi, non siamo diversi, non siamo migliori, siamo soltanto forse un po' più resilienti. Però ecco, questa rabbia sotto e questo proprio totale menefreghismo nel rispetto delle regole, come se fosse per gli altri ma non per me, ecco, questo è veramente molto molto brutto, credo sia la parte peggiore in assoluto. Questo aspetto qui del lato umano è proprio quello che mi piace di meno, l'ho sempre visto in emergenza, pensavo che in questa condizione qui non ci fosse, invece ahimè. E concludo dicendo a tutti noi che siamo impegnati a sopravvivere a questo momento, con questo termine che è rubato alla fisica, il termine di resilienza, io dico il popolo italiano è un popolo resiliente, lo è sempre stato, per cui resilienti eravamo, resilienti saremo, quindi resistiamo. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Puntata interamente dedicata ai volontari, migliaia che sono operativi sul campo e lavorano nell'emergenza coronavirus. Lorenzo Radice in questa storia ha un doppio ruolo: se in casa si occupa della mamma malata di Alzheimer, poi ogni giorno online fa la sua lezione di scherma coi suoi allievi, alcuni con disabilità, e grazie alla scherma sono riusciti ad ottenere importanti risultati. Ci siamo organizzati in una maniera del tutto innovativa, soprattutto per quanto ci riguarda, per uno sport di contatto come la scherma, attraverso delle simpatiche videochiamate cumulative. Abbiamo trovato una app che ci permette di essere collegati in hot, quindi di sfruttarla. Siamo due istruttori e sei allievi, abbiamo diviso tendenzialmente i nostri allievi per età, quindi ragazzi che vanno dai 6 ai 13 anni, li abbiamo divisi in ragazzi dei primi tre anni, tendenzialmente, ecco, primi tre anni delle elementari, poi gli ultimi due anni delle elementari e gli anni delle medie. Ma la cosa più bella è che con il progetto importante che stiamo portando avanti con Cascina Biblioteca all'interno del Parco Lambro, abbiamo attivato questa modalità di lezione con videochiamata anche con i ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale con i quali ormai lavoro dal mese di ottobre. questa attività ovviamente non la riusciamo a fare con 6 persone in contemporanea, con gli educatori e con gli assistenti sociali di Cascina Biblioteca. In questo devo ringraziare moltissimo Angela, che si è impegnata moltissimo per portare avanti questo progetto con tutti i ragazzi e con i familiari. Facciamo delle videochiamate con i ragazzi che sono un po' meno in difficoltà, riusciamo a fare dei gruppi anche di 4 persone, con quelli che magari hanno un po' qualche difficoltà di attenzione in più. Facciamo delle videochiamate nelle quali siamo solamente in 4, io, Angela e 2 di questi ragazzi. Il risultato mi sembra molto molto positivo, vedo la gioia di questi ragazzi che ovviamente si sentono spaesati, perché prima trovavano nel centro diurno di Cascina Biblioteca una straordinaria opportunità di inclusione, di integrazione con altre persone, di attività che gli riempivano le giornate, mentre adesso sono chiusi come noi tutti ovviamente in casa. Ovviamente le persone che non hanno problemi di disabilità riescono a cogliere molte più opportunità nel momento in cui sono tra virgolette rinchiusi in casa, mentre le persone con disabilità soffrono moltissimo questa rinclusione all'interno delle mura domestiche. I sorrisi dei ragazzi, la gioia dei ragazzi e soprattutto i ringraziamenti dei genitori o dei familiari che ci ringraziano per quello che stiamo facendo in questo momento, ovviamente ci gratificano, ci aiutano moltissimo a portare avanti questo progetto che portiamo avanti tutte le mattine con i ragazzi di Cascina Biblioteca e il pomeriggio invece con i ragazzi di Accademia Scherma Milano. Massimo Mauro è il presidente di AISLA, si occupa di malati di SLA, tra i più esposti in questi giorni di emergenza. Sono molte le iniziative messe in campo. AISLA ha 58 sezioni in Italia, 300 volontari che quotidianamente si occupano di tutte le problematiche di familiari e ammalati. Le telefonate al nostro centro d'ascolto, che è un servizio gratuito dove rispondono tutti gli operatori e tutti gli specialisti che si occupano di SLA, sono molto aumentate nel mese di febbraio e marzo. Chiaramente la SLA o le malattie neurodegenerative sono malattie che in questo momento rendono molto fragili. Io dico sempre familiari e ammalati, perché purtroppo SLA, SMA sono malattie che sconquassano la famiglia, quindi creano un problema non solo all'ammalato, ma psicologico a tutti i familiari dell'ammalato. Quindi stiamo cercando di intervenire nelle urgenze. Insieme al centro clinico Nemo cerchiamo di garantire la visita di un pneumologo a casa per le urgenze, per le situazioni molto difficili, perché consigliano i nostri esperti di non andare in ospedale, e quindi questo crea molto molto disagio e preoccupazione ai familiari degli ammalati, perché un cambio cannula o la fisioterapia, insomma, sono cose difficili. Abbiamo notizie di familiari che non hanno fatto entrare dei sanitari perché non avevano la mascherina, e quindi le difficoltà che in questo caso ha la Regione Lombardia, ma direi in tutta Italia, diventano dei problemi difficilissimi da risolvere per i nostri assistiti. Una cosa che è di routine ogni 3-4 mesi per un ammalato di SLA, come il cambio cannula per gli ammalati che sono in tracheo, e farla a casa è un po' più complicato. Ovviamente i pneumologi sono capaci di farla, no? Però insomma, è sempre un rischio, e in questo momento in Lombardia è difficile trovare uno pneumologo che possa andare a casa, e grazie al centro Nemo stiamo cercando di garantire questo servizio. Ma in generale anche l'aspetto psicologico è straordinariamente importante in questo momento, e quindi garantiamo anche la visita di psicologi a domicilio. Questa è una storia difficile, no? Perché gli ammalati di SLA, gli ammalati gravi, hanno gli stessi problemi che avevano 3-4 mesi fa. Il problema è che in questo momento sono molto preoccupati se dovessero avere un'urgenza. Allora noi la prima cosa che abbiamo fatto è ci siamo organizzati per mettere in contatto medici, psicologi, no? Abbiamo attivato una piattaforma digitale dove ci possono incontrare immediatamente, si possono incontrare immediatamente le persone che hanno bisogno di parlare con i nostri esperti. E questo è diventato, abbiamo constatato nelle ultime due settimane, che è diventato molto molto importante, perché la paura è diventata una compagna quotidiana, lo era già, ma adesso è ancora più significativa dentro le case di familiari ammalati. E questo è davvero tragico se uno ci pensa. Poi noi siamo sostenitori dei centri NEMO e quindi sono un punto di riferimento per gli ammalati di malattie neurodegenerative, e abbiamo promosso una campagna di raccolta fondi, distanti ma vicini, perché vogliamo far sapere, vogliamo garantire a tutte le persone che hanno bisogno che i centri NEMO, è vero che stanno avendo delle difficoltà come tutti gli ospedali in Italia, ma noi siamo lì a garantire la continuità. Una volta in questo centro sa che tutte le persone che lo compongono sono esperti di quelle malattie. Anche per questa puntata ci fermiamo qui, vi saluto, vi prego di scriverci all'indirizzo diario @radio24.it. Un abbraccio da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.